Buonasera a tutte e a tutti, cominciamo questa assemblea e dibattito. Vi ringraziamo di essere qui, come ringraziamo Eric Gobetti, qui al mio fianco, storico e ricercatore freelance, che ha dedicato buona parte dei suoi studi, probabilmente tutti anche, la maggior parte, alla storia della Jugoslavia e del confine orientale italiano, di quelle zone che vanno dalla Venezia Giulia fino all'Istria, anche appunto della storia dei Balcani e della Jugoslavia, e che oggi è qui presente proprio per seguire con noi alcuni di quei passaggi di quella storia che vanno soprattutto nel periodo dell'occupazione italiana tra il 41 e il 43 in Jugoslavia e riguardante gli eventi successivi che molto spesso appunto sono oggetto di dibattiti molto contrastati proprio su quello che è successo, e purtroppo oggi c'è molta, ne parlavamo prima, c'è molta disinformazione, proprio nel senso che le informazioni non vengono passate nel modo corretto, le informazioni passate sono spesso errate o strumentalizzate. Io parlo qui a nome del collettivo politico Porco Rosso. Questa iniziativa l'abbiamo organizzata insieme a Kraus, che lavora dentro l'università. Ringraziamo infatti anche i ragazzi di Kraus per aver reso disponibile la stanza. Noi siamo un collettivo che è nato da poco, da veramente poco, e ci proponiamo di riuscire a inserirci nella dimensione senese, riuscendo a costruire dei percorsi sociali e politici che siano conflittuali e allo stesso tempo riescano a incidere dentro le dinamiche della città, andando a colpire su quelli che sono i problemi principali, che sono innanzitutto i problemi dei più poveri, dei più emarginati, di chi da questa società e da la più recente crisi, quella che ancora purtroppo devasta l'Europa e non solo, ne sono rimasti più colpiti. Quello che noi ci proponiamo oggi di fare però è innanzitutto una ricostruzione storica accurata. Abbiamo intitolato l'assemblea noi ricordiamo tutto, perché alcuni vorrebbero pensare appunto che la memoria ripercorra esattamente ciò che è stata la storia, ovvero che la memoria sia immagine dei fatti accaduti. Questo purtroppo non è vero. Come sottotitolo abbiamo messo appunto storia e memoria del confine orientale italiano, proprio perché la memoria è un qualcosa di differente dall'accertamento storiografico e dall'accertamento degli eventi storici effettivamente accaduti. Cos'è la memoria? Ora ne approfitto, mi dispiace, farò un intervento veramente brevissimo, giusto per introdurre alcuni argomenti. Ne approfitto per citare due storici che sono stati tra i più importanti studiosi proprio della memoria, della costruzione della memoria nel corso del Novecento, che sono, scusate la pronuncia, non sono bravissimo, Maurice Halbwax e Nora, Pierre Nora se non mi sbaglio. Il primo diceva, sempre che lo ritrovi, sono perso, ok. Il primo diceva: la storia comincia là dove finisce la memoria, addirittura. Il secondo dice: la memoria è quel che del passato rimane nel vissuto di gruppi o ciò che i gruppi fanno del passato. Soprattutto la seconda è un'affermazione che ci apre veramente un mondo. Che cos'è la memoria? La memoria chiaramente è quello che ci rimane di esperienze personali, che siano lavorative, che siano sentimentali, qualsiasi cosa, ma esiste anche un altro tipo di memoria, una memoria collettiva, una memoria che riguarda tutti noi. È anche una memoria molto spesso fondamentale, perché sono l'insieme di quegli eventi, l'insieme di quei valori che vengono inseriti dall'uomo all'interno di un quadro, culturale, all'interno di un quadro di avvenimenti, appunto. E in questo modo gli viene dato un senso nello scorrere del tempo, viene dato un significato agli eventi anche attraverso la memoria. Cosa succede però quando questa memoria appunto è distorta, quando questa memoria è strumentalizzata per fini specifici? Cosa succede quando la memoria non ricalca, non rappresenta ciò che effettivamente è successo storicamente, non solo diciamo una sfumatura di ciò che le persone hanno vissuto di un particolare evento storico, ma cosa succede quando proprio viene costruita la memoria, quando avvenimenti che non sono mai accaduti o che sono avvenuti in modi differenti o di cui le cause e le dinamiche non sono studiate, sono affrontate in modo superficiale, sono a volte anche taciute? Cosa succede quando la memoria viene costruita attraverso queste formule, attraverso queste dinamiche, attraverso questi percorsi? È chiaro che si perde la storia, si perde ciò che è successo e si perde la realtà dei fatti, si perde anche il significato di quei fatti. Quello che noi vogliamo provare a fare anche un po' oggi è questo, provare a ricostruire effettivamente ciò che è accaduto e ricostruire nella sua complessità. La storia chiaramente non comincia sicuramente nel momento delle foibe, che in realtà sono due momenti separati, non comincia neanche nel 41, non comincia nemmeno nel 39 con la seconda guerra mondiale, comincia molto prima, comincia sicuramente già quando, soprattutto nell'Istria, il regime fascista, prima ancora di essere al governo, quindi non il regime, diciamo il fascismo, prima ancora di essere al governo tramite le sue squadracce, comincia a fare un'opera di terrore, comincia a fare un'opera di un'opera di italianizzazione di quei luoghi, comincia a bruciare o a uccidere tutti coloro che si fanno anche portavoci di una realtà differente, una realtà meticcia come quella istriana. Quello che noi proviamo appunto a fare oggi è cercare di comprendere, almeno per quello che possiamo fare, per quello che c'è possibile fare nell'arco di un evento come questo, con i suoi anche limiti d'orario, eccetera, cerchiamo di capire queste dinamiche, ciò che è avvenuto e ciò che ha portato alle diversi avvenimenti che oggi ci vengono presentati, e presentati appunto cancellando parti di quella storia, facendola cominciare dove risulta più comodo, facendo in modo che quegli eventi appaiano in modo differente rispetto a quello che è accaduto. Cosa significa questo? Significa appunto costruire memoria, costruire una identità, costruire una visione differente del nostro passato, funzionale a chi? A pochi, a chi ci vuole propinare retoriche nazionaliste, divisorie, revanchiste, revisioniste anche rispetto agli avvenimenti storici. Quello che noi dobbiamo fare, quello che è innanzitutto il nostro primo scopo, è proprio quello di cancellare queste incrostazioni ideologiche e riuscire innanzitutto a riscoprire la storia, riuscire a colmare quella distanza che oggi è stata addirittura accentuata proprio dallo Stato tramite, e poi questo appunto ne parlerà probabilmente meglio e più approfonditamente anche Eric, tramite una serie di politiche della memoria, innanzitutto il giorno del ricordo che cade domani e non a caso cade purtroppo nella data che in realtà è quella dei trattati di pace della Seconda Guerra Mondiale. Cioè noi ricordiamo in modo anche piuttosto vittimistico diciamo i morti infoibati nel giorno che praticamente dovrebbe essere il giorno della pacificazione. Anche questa è costruzione della memoria, anche questo è uno scontro che viene posto rispetto alle date, agli avvenimenti e così via. Come dicevo appunto, il nostro scopo deve essere quello di cancellare tutte queste incrostazioni, vedere cosa c'è sotto, vedere la storia, vedere, riuscire a ricostruire ciò che è avvenuto davvero e su quello ragionare insieme e provare a costruire anche insieme non solo la storia, ma una storia che sia certamente anche democratica, cioè che sia accessibile a tutti, che tutti possano tenerla in mano. Oggi purtroppo viene fatto proprio un uso pubblico della storia, come dicevo prima, funzionale a determinate retoriche, a determinati partiti, a determinate visioni del mondo e anche dell'Italia. Bisogna cancellare, bisogna combattere e abbattere queste visioni, riuscire a ritrovare, chiaramente con i suoi limiti, la verità storica, ragionare su quella e su quella fare anche un'autocritica di ciò che siamo stati e di ciò quindi che è anche in parte, ed è vero questo, la nostra identità, cioè nel senso ciò che ci ha preceduto, ciò che ha costruito oggi il nostro paese purtroppo, e andare avanti, riuscire a creare una proposta che sia collettiva e che sia di avanzamento per tutti senza lasciare nessuno indietro. Detto questo appunto mi fermo, vi ringrazio ancora di essere qui e lascio la parola a Eric. Grazie dell'introduzione, grazie dell'invito a questo incontro, grazie a voi di essere qua, siete tanti, spero che siate anche interessati e spero di non annoiarvi troppo. Io la mia intenzione è quella di parlare insomma una mezz'oretta, cercare di fare appunto come si diceva una ricostruzione un po' diciamo fattuale proprio dei dati storici della vicenda, perché credo che manchi proprio una conoscenza, cioè c'è una forte disinformazione su questo su questo tema, che non vuol dire mancanza di informazioni, proprio di informazioni sbagliate che vengono trasmesse ogni anno dai mass media e purtroppo anche dalla politica, e quindi c'è bisogno, secondo me, di partire da dati di fatto che sono appunto dati fattuali su cui gli storici non hanno sostanzialmente dubbi. Cioè, chiunque abbia fatto realmente ricerca storica su questi temi ormai, diciamo, si trova d'accordo su una serie di elementi e su una serie anche di elementi anche di proprio numerici, che sono quelli forse su cui c'è un maggior uso politico, diciamo, e che, come vedrete, sono completamente diversi da quelli che vengono di solito raccontati appunto in televisione. E quindi, in qualche modo, il mio racconto fattuale andrà a sfatare una serie di luoghi comuni che siamo abituati a sentirci raccontare quasi involontariamente. Cioè, io non voglio fare polemica, semplicemente raccontandovi come sono andati i fatti capirete da soli che molte delle cose che ci vengono raccontate semplicemente non possono essere vere, cioè non possono essere interpretate in quel senso, in quel modo. Partirei da un dato, quindi, insomma, la mia idea sarebbe quella di raccontarvi questa cosa una mezz'oretta, dopodiché possibilmente, se riusciamo, a avere un po' di dialogo, un po' di dibattito, un po' di scambio di opinioni, diciamo, anche appunto sulla questione delle politiche della memoria, che è sicuramente un tema molto interessante, che tocca tutti noi in fondo, no? tutti i cittadini che vivono in questo paese, che sono sottoposti a queste politiche della memoria. E partirei da un elemento che riguarda proprio lo spazio geografico di cui stiamo parlando, che già di per sé è molto poco conosciuto e spesso non viene neanche raccontato molto, molto bene. Per questo ho portato delle mappe per capire un po' meglio come sono andate le cose in questo spazio. Questa mappa, che risale all'impero austro-ungarico, mostra appunto i territori di cui parleremo oggi. Ma, diciamo, risalendo anche prima dell'impero austro-ungarico, essenzialmente possiamo parlare di un territorio che è un territorio di confine per antonomasia, cioè è uno dei territori d'Europa dove si incrociano sostanzialmente tre mondi culturali: il mondo latino, il mondo germanico e il mondo slavo. E questo è un elemento fondamentale per comprendere questi territori. E qua uno dei primi luoghi comuni che si possono sfatare è quello dell'italianità, di un territorio che è sempre stato italiano, come spesso ci viene detto. Allora, questo territorio è stato italiano poco più di 20 anni, tra la prima e la seconda guerra mondiale. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. In tutte le epoche precedenti è stato appunto un luogo di incontro e di compresenza di popolazioni di origini culturali e anche linguistiche differenti, appunto latine, germaniche e slave. Questo ha prodotto sostanzialmente nel corso dei secoli un'identità locale molto mista, essenzialmente proprio un'identità che è basata sulla identificazione di se stessi come persone frutto di diverse identità. Ad esempio, diciamo, le appartenenze non sono mai state strettamente legate a una singola appartenenza, ma sempre legate a più appartenenze. Italo Svevo, che è uno degli abitanti di questi territori più conosciuto, sceglie come pseudonimo questo nome proprio per identificare la sua identità mista italiana e germanica. Ma ci sono molti casi di questo tipo. La città di Trieste, in particolare, in quanto porto dell'impero austro-ungarico, è stata per molti secoli proprio luogo di incontro di popolazioni, in realtà, di tutto il mondo, non soltanto di quest'area geografica, ma in generale anche l'Istria in particolare, che è questa penisola che vediamo qua raffigurata nel centro della mappa, che in qualche modo ha sviluppato un'identità localista molto forte. Cioè, è difficile trovare ancora oggi nei figli o nei nipoti dei profughi istriani una caratterizzazione della propria identità come puramente italiana. Questo non succede nemmeno oggi, nonostante tutta la propaganda di italianità che è stata fatta in un secolo di storia. Molto spesso si identificano ancora oggi come istriani, cioè un'identità localista molto forte, molto diversa da quella puramente italiana. Quello che è sicuramente vero è che nel corso dei secoli c'è stata un'abitudine a identificare l'italianità, ovvero principalmente l'utilizzo della lingua italiana e una assimilazione alla cultura italiana, come una sorta di progresso sociale, legato spesso anche a un progresso economico e anche all'urbanizzazione. Detto in poche parole, un contadino che va a vivere in città, di solito in una città della costa in particolare, comincia a parlare italiano, perché l'italiano è sempre stata, o meglio Veneto principalmente, sempre stata la lingua del commercio in queste aree, e comincia a in qualche modo italianizzarsi. Questo appunto è stato un processo storico molto, molto lungo, che in qualche modo è ancora in corso nel corso dell'Ottocento, e che quindi è in pieno corso nel momento in cui nel momento di questa mappa, che è rappresentata da questa mappa, cioè nel periodo dell'impero austro-ungarico. Questa storia nel corso del Novecento diventa una storia che in qualche modo è la storia di tre grandi ideologie. E una è l'ideologia nazionalista, e questa forse è l'elemento più difficile da comprendere per noi, nel senso che non siamo abituati a pensare il nazionalismo come un'ideologia, siamo abituati a pensare il nazionalismo come una cosa innata. Noi apparteniamo a una nazionalità perché lo siamo sempre stati, perché siamo di quella nazionalità, perché quella cosa è nel nostro sangue in qualche modo. Forse non si pone più in questi termini, perché parlare di sangue fa subito pensare alle razze e al nazismo, però essenzialmente è quello che profondamente siamo tutti convinti di cui siamo tutti convinti nel profondo. Ecco, sostanzialmente non è così. Voi siete tutti studenti universitari e immagino che l'abbiate magari anche studiato già all'università, però essenzialmente il nazionalismo è un'idea politica che nasce nel Settecento, si sviluppa nell'Ottocento e diventa, come dire, una delle principali ideologie, diciamo, concretamente politiche, nel corso del Novecento, e che è ancora assolutamente in corso in questo momento, voglio dire, ancora assolutamente diffusa come ideologia politica fondante degli stati contemporanei. Infatti non a caso si parla di Stato-Nazione, cioè di costruzione di uno Stato che si identifica con una singola nazione, cioè che quindi costruisce un'identità nazionale che si identifica con lo Stato di riferimento. Questo è un processo molto complesso, molto lungo, che in questi territori ovviamente fatica a realizzarsi, proprio perché sono territori di confine, proprio perché sono territori in cui ci sono identità miste molto forti. Le altre due ideologie che raccontano un po' la storia di questi territori nel Novecento sono l'ideologia fascista e l'ideologia comunista, che hanno però, sono certo ideologie totalitarie, ideologie che hanno per certi versi molto in comune, ma hanno sicuramente un elemento che le differenzia moltissimo, che è proprio il rapporto col nazionalismo, cioè con l'identificazione con una singola nazionalità. Il fascismo, meglio tutti i fascismi, sono strettamente correlati con il nazionalismo, sono, come dire, un upgrade del nazionalismo, no? Un nazionalismo portato all'estremo e che diventa totalitario, ha un rapporto totalitario con la propria nazionalità di riferimento. Non a caso il fascismo in qualche modo impone una totale identificazione della popolazione italiana col fascismo. Questo soprattutto ovviamente nelle zone di confine, cioè dove ci si deve confrontare con altre nazionalità. All'interno dell'Italia uguale, ma in minor misura, o comunque in misura meno evidente. Non a caso il fascismo si sviluppa fortemente fin dall'inizio, soprattutto al confine orientale, soprattutto nella zona di Trieste e di Gorizia e dell'Istria, insomma nelle zone dove c'è un confronto nazionale. Il comunismo invece no, il comunismo è notoriamente un'ideologia internazionalista, un'ideologia che non fa riferimento a una singola nazionalità. Questo sarà ben chiaro quando sarà il comunismo a prevalere in questi territori. E come vedremo quando ci arriveremo, non sarà il nazionalismo a guidare la mano dei persecutori quando loro avranno il potere, ma sarà un'ideologia diversa, un'ideologia che fa riferimento appunto a un'ideologia politica, ma non a una singola nazionalità.